La teoria delle stringhe è nata... È democratico perché... Per OGM si intende... L'effetto placebo... Da Bacon. È rimasta quella di Darwin. La mia risposta è che non lo so. Caccia al fotone. Scienza e dintorni su Radio Città Fujiko. A cura di Fabio De Sicò. Sabato 21 novembre 2009 e benvenuti a un'altra puntata di Caccia al Fotone. Su internet www.cacciafotone.it. E questo sabato parleremo di un argomento di cui non abbiamo mai parlato nel corso dei 5 anni precedenti di Caccia al Fotone. Parleremo di economia e di matematica, quindi di economia studiata con i numeri. E ne parleremo col professor Emilio Barucci del Politecnico di Milano. Buongiorno professor Barucci. Buongiorno. Professor Barucci, noi all'inizio abbiamo 100 parole iniziali per introdurre la trasmissione, quindi io in 100 parole, se ci riusciamo, vorrei chiederle che cos'è l'economia. Beh, quando parliamo di economia, intanto parliamo di scienza economica, quindi parliamo di una scienza che teoricamente si è formata a partire dall'Ottocento con una dovuta modellizzazione. Il tentativo è di modellare i fenomeni sociali di tutti i giorni tramite anche modelli matematici che ormai vengono utilizzati in modo significativo. L'obiettivo sostanzialmente è quello di studiare come alcune grandezze economiche, tipicamente i prezzi delle varie attività, dei vari beni, alcune grandezze macroeconomiche tipo l'andamento del PIL o l'andamento del debito pubblico, sono il risultato dell'interagire delle persone. Ecco, quindi cerchiamo dei modelli che, al partire dal comportamento degli individui formalizzato, spieghino alcune grandezze che osserviamo tutti i giorni. Professor Barucci, da quello che ci ha appena detto, saranno argomenti molto interessanti da trattare all'interno della trasmissione. Adesso ci andiamo ad ascoltare un piccolo pezzo musicale, torniamo in studio e poi cominceremo davvero con l'argomento della settimana. Don't see everybody's gone to hell. E bentornati in studio, cari radioascoltatori. Siamo di nuovo in compagnia con Emilio Barucci del Politecnico di Milano. E la prima domanda che vogliamo fargli, lui è un economista, è fondamentalmente questa: da quando possiamo dire che l'economia è diventata materia per matematici? Beh, l'economia come scienza si fa risalire alla fine del Settecento, quindi già questo ci dice che è una scienza tra virgolette molto giovane. Però ci sono stati vari antesignani anche in Italia, Fibonacci ed altri, che hanno proposto una modellizzazione utile per capire alcuni aspetti dell'economia. Da quel momento, però, ecco, dalla fine del Settecento si è sviluppato sempre di più poi la consapevolezza che per comprendere i fenomeni economici c'era bisogno di una materializzazione degli stessi, in primo luogo tramite modelli, quindi dei modelli anche abbastanza semplici, che in gran parte sono ispirati dalla tradizione della fisica, venivano sempre più applicati in economia, e questo avviene in tutto l'Ottocento. Nel Novecento c'è un salto di qualità, perché si giunge sostanzialmente in contemporanea col progetto di ricerca anche Bourbakista ed altri, addirittura una assiomatizzazione del comportamento economico, quindi si studia il comportamento degli individui a partire dal fatto che gli individui si comportino secondo certe ipotesi di partenza base. Teniamo conto, per avere un ordine di idea, che oggi, nel XX secolo, nel secolo scorso ed oggi, si sono occupati di economia tra i più grandi matematici, sia teorici che applicati. Per capirsi, tra le due guerre mondiali, i contributi fondamentali all'economia, alla formalizzazione dell'economia, sono venuti da von Neumann, che è un matematico ben noto, che ha dato contributi in tutti gli ambiti della matematica applicata, compresa l'economia. Quindi il paradigma che è cambiato qual è? Prima si utilizzavano i numeri secondo modelli e poi il modello è diventato sempre più complesso? Allora possiamo dire questo: i fenomeni umani sono una brutta bestia da modellare da un punto di vista matematico, quindi all'inizio siamo andati per gradi, se vogliamo, abbiamo avuto un fiorire di modellizzazioni, se vogliamo, parziali, quindi si cercava di capire come sostanzialmente si comportava il mercato, la domanda e l'offerta, come si incontravano. Poi piano piano si è costruito dei modelli sempre più complicati, che avevano l'ambizione di spiegare il fenomeno economico, il sistema economico nel suo complesso. Quindi i modelli sono diventati più complicati e anche più sofisticati. Non siamo però giunti, appunto perché l'economia è una bestia difficile, a un modello unico. Quindi ci sono scuole di pensiero, ci sono modelli alternativi, anche con impostazione, con considerazioni di policy assai differenti. Senta, quindi il modello economico è come se fosse un po' la teoria dell'universo in espansione. All'interno della teoria dell'universo in espansione, all'interno della teoria del mercato, ci sono varie equazioni che cercano di analizzare piccoli dettagli, giusto? Esattamente, noi abbiamo un quadro di riferimento che è molto generale sul funzionamento dei mercati, che costituisce, se vogliamo, il punto di unione delle varie analisi. Poi però si giunge a comprendere il funzionamento dei singoli mercati, ci sono teorie ad hoc per i vari mercati. Non so, la teoria dei mercati finanziari è in gran parte diversa dalla teoria dei mercati per i beni energetici. Ecco, c'è una specializzazione nei diversi settori, con una diversa anche modellizzazione, e non c'è un economista esperto di tutto oramai, c'è una specializzazione anche nell'ambito della ricerca scientifica. Senta, lei prima ha citato due termini che sono molto noti agli economisti e anche a tutti noi: la domanda e l'offerta. Però all'interno dei sistemi economici ci sono, per esempio, termini come capitale, investimento, guadagno, ricavo. Cerchiamo un attimo di dare un glossario per coloro che non abbiano mai sentito questi termini, oppure per coloro che abbiano una confusione sul significato di questi termini, perché se ne sente parlare molto, però in realtà di comprensione di questi termini, quindi dei concetti che rappresentano questi termini, in realtà non è che ce ne sia tanta. Ma, Allora, il capitale è lo stock di materia di finanziario di beni che è a disposizione di un'impresa o di un soggetto, quindi un individuo ad esempio possiede un capitale che è tipicamente il conto in banca ed è la propria abitazione, ecco, queste sono le forme, quindi è la quantità, il valore, il livello di disponibilità finanziaria e economica di beni che io ho a disposizione. Per capitale si intende anche a volte concetti più ampi, sì, ormai va di moda il termine capitale umano, che ha a che vedere con l'insieme, lo stock di conoscenze che un individuo o una società ha a disposizione, ma si parla anche di stock di capitale pubblico, cioè a dire le infrastrutture di cui siamo dotati in un certo paese. Gli investimenti invece sono una variabile di flusso, cioè a dire descrivono l'incremento di questo stock di capitale che viene a determinarsi ogni anno, ogni mese e così via. Quindi è una sorta di differenziale, se vogliamo usare un'espressione matematica, va bene? Quindi è l'incremento o il decremento di questo stock. Il guadagno tipicamente è rappresentato dall'incremento che io posso verificare a seguito di un investimento o anche senza un investimento nel mio stock di capitale a seguito di un'operazione finanziaria o di un'operazione economica. Queste sono un po' a grandi linee, se vogliamo, i termini del discorso, cioè attorno a cui spesso si fa confusione, ma su cui c'è necessità di avere un'idea chiara. Senta, professore, all'inizio noi abbiamo parlato un pochino di modelli e modelli fondamentalmente sono algoritmi, quindi una serie di step per raggiungere il risultato finale. All'interno degli algoritmi normalmente ci sono delle variabili e delle costanti. Quali sono le cose che all'interno del modello economico possono variare di più e quindi possono far cambiare il risultato che noi ci aspettiamo? Allora, lei fa riferimento ad algoritmi e qui bisogna però chiarire un punto. L'economia non è una soltanto, ha una doppia obiettivo, chiamiamolo così. Non è soltanto una scienza ingegneristica, quindi usare un modello per risolvere un problema. Noi abbiamo questo ovviamente quando vogliamo favorire la crescita in questo paese, costruiamo un modello e cerchiamo di capire come funziona, come fare per raggiungere l'obiettivo. Però noi usiamo anche modelli come scatola interpretativa più generale, quindi abbiamo, se vogliamo, un utilizzo dei modelli in chiave, se vogliamo, speculativa, che è tipico per molti aspetti della fisica, quindi capire come funziona l'universo, in questo caso capire come funziona l'economia, e poi invece abbiamo modelli adatti per risolvere i problemi. Ecco, in questa prospettiva tipicamente che cos'è che si cerca? Si cerca, come diceva giustamente prima, di individuare delle relazioni di lungo periodo, cioè di stabilire delle relazioni abbastanza stabili attorno a quello che può essere il funzionamento dell'economia, e questi possono essere chiamati i parametri del modello. Poi ci sono le variabili, che noi chiamiamo variabili esogene, quindi ciò che può succedere e che non è modellato in termini di parametri deterministici, ma è dato anche molto dalla aleatorietà. Beh, qui ci sono tutta una serie di parametri che possono essere importanti. Sicuramente c'è un parametro importante che deriva dalle originarie, se vogliamo, le calamità naturali. Non sono prevedibili, ovviamente, e queste influenzano notevolmente l'andamento dell'economia. Recentemente abbiamo avuto nel 2001 un esempio di una variabile che non era prevedibile, che è stato lo shock terroristico, che ha portato forti ripercussioni sull'economia. Ci sono però altre variabili, tipicamente, cioè c'è la possibilità che alcune materie prime diventano più scarse, e questo è un fenomeno tipico, oppure la variabilità dell'innovazione tecnologica, pensiamo a quello che l'information technology ha dato in termini di recupero dell'economia e così via. Ecco, questi sono alcuni esempi di variabili che sono esogene, quindi si ipotizzano non essere sotto il controllo degli individui e che influenzino in qualche misura il comportamento dell'economia nel suo complesso. Ce ne sono molte altre, ovviamente, si può considerare variabile esogena anche alcune decisioni macroeconomiche, non so, In questi giorni Obama è andato in Cina per cercare di convincere la Cina a sostenere l'economia americana. Beh, la decisione dei cinesi di dire di sì o di no può essere interpretata come una variabile che cambia il corso dell'economia in modo significativo. Perfetto professore, ci lasciamo un attimo con un piccolo pezzo musicale, torniamo in studio e poi continuiamo ad affrontare questo argomento. E bentornati in studio, cari radioascoltatori, in questa puntata in cui stiamo provando a parlare di economia e ne stiamo parlando col professor Emilio Barucci del Politecnico di Milano. Ci siamo lasciati parlando delle variabili esogene, che sono quelle cosiddette variabili che dipendono dal comportamento umano. Questo mi fa ben sperare e pensare che l'economia è molto meno statica e molto meno sicura nei suoi risultati rispetto a quello che ci vorrebbero far passare i media. Ah, non c'è dubbio, perché tra le variabili, nel bene e nel male questa, tra le variabili esogene o meno, ad esempio nella recente crisi finanziaria c'è un dibattito, perché c'è qualcuno che sostiene che la crisi finanziaria deriva esclusivamente dalla caduta del mercato immobiliare americano, quindi i prezzi delle case sono saliti molto, c'è una diminuzione repentina e questo è ritenuto essere una variabile esogena. In questo caso si parla di rischio sistemico, cioè noi non potevamo prevederlo, non potevamo farci niente, è successo e dobbiamo in qualche modo gestirlo. C'è però chi ritiene che quello stesso fenomeno non fosse del tutto esogeno, non fosse del tutto, chiamiamolo così, imprevedibile, ma che fosse in qualche modo il risultato dell'azione anche dell'uomo. E su questo c'è un dibattito molto intenso, ecco. Senta professore, abbiamo parlato di modelli, quindi di sistemi di previsione, e abbiamo parlato fondamentalmente di variabili. La mia domanda però è questa: il sistema economico è un sistema stocastico o un sistema che dà risultati sicuri? Cioè, detto in parole povere, dando dei parametri iniziali arriviamo sicuramente a un risultato che noi ci siamo aspettati, oppure il risultato potrebbe differire molto da quello che ci aspettiamo? Detto in parole povere ancora, quanto è prevedibile il sistema economico? Allora, il sistema è per natura sicuramente stocastico, nel senso che questo credo che però sia un fenomeno tipico della maggioranza delle scienze in molti ambiti, nel senso che non riusciamo a modellare completamente tutti i fattori. Questo è il punto. Dopodiché abbiamo pezzi di teoria deterministici che ci servono a capire alcuni aspetti del fenomeno, questi li abbiamo. Però ecco, il modello nel suo complesso è stocastico. Tipicamente tutti i modelli dei mercati finanziari sono stocastici. Dopodiché, se io devo costruire un modello per capire come si deve organizzare un'impresa nel modo migliore possibile, posso adottare un modello di tipo deterministico, ecco perché posso in qualche modo controllare tutte le variabili significative. Però ecco, la realtà economica è una realtà stocastica sicuramente. Insomma, un po' come studiare l'atmosfera: noi sappiamo che cos'è l'atmosfera in questo momento, ma ci sono una serie di variabili, infinite variabili, che potrebbero modificarle e portare lo stato atmosferico totalmente diverso rispetto a quello attuale, quello che ci aspettiamo diventi. Molto sì, la situazione è simile, ovviamente i problemi di variabilità sono diversi, ma la situazione è molto simile. Senta, una delle tante cose di cui abbiamo sentito parlare sia in televisione, sia in radio, sia letto sui giornali, è la parola derivato, che sono delle strutture matematiche molto complesse da studiare. Ci vuole dire che cos'è un derivato in parole semplici? Un derivato è un contratto stipulato tra due persone, tra due istituzioni, in cui si prende una posizione riguardo a quello che potrebbe essere l'andamento di un titolo, che è detto titolo sottostante. Il derivato più classico è un'opzione call, mi dà la possibilità a chi lo stipula di acquistare un titolo ad un determinato prezzo in futuro, ma non l'obbligo. Quindi si parla di derivato perché il valore di questo contratto, nel momento in cui verrà esercitato eventualmente, dipende dal valore del titolo sottostante. Per fare un esempio, se io oggi acquisto un derivato che mi dà diritto tra un anno ad acquistare il titolo Fiat a 3 euro, cosa significa? Significa che se il prezzo del titolo sarà superiore a 3 euro userò questo diritto e guadagnerò la differenza, se invece sarà inferiore a 3 euro non userò questo diritto. Quindi sono dei contratti, questo è molto semplice, è più difficile a dirlo che a spiegarlo, è un'opzione, quindi semplicemente una scommessa su come andrà il titolo sottostante. Il problema è che i derivati sono diventati nel corso del tempo molto molto sempre più complicati, perché da una parte per un'esigenza effettiva, cioè dire gli operatori hanno bisogno di stipulare contratti più complessi per gestire nel modo migliore le loro posizioni, dall'altra è emerso in modo evidente, i derivati si sono sviluppati soprattutto per esigenze speculative, cioè per fare volumi e per guadagnare il differenziale su alcuni prezzi di questi titoli. Però ecco, i derivati nascono da un'esigenza effettiva di più efficiente gestione delle proprie attività finanziarie. Ecco. Professore, le faccio una domanda da non tecnico. Visto che il sistema è stocastico, quindi diciamo non perfettamente prevedibile, non sarebbe il caso di semplificare il sistema per poterlo studiare meglio, piuttosto che renderlo sempre più complesso e creare una serie di variabili che magari possono sbalzare le previsioni? Questo, allora, capisco il punto, però è la realtà economica che diventa sempre più complessa. cioè la realtà economica rispetto a 50 anni fa è diventata enormemente più complessa, più interconnessa, più aperta. Pensiamo semplicemente al fatto che 50 anni fa le economie avevano sostanzialmente una natura nazionale, oggi le economie hanno sono a livello internazionale, sono fortemente interconnesse. Quindi l'esigenza è di avere modelli che in qualche modo catturino questa complessità, e quindi ecco, non è che si possa spingersi molto nella direzione di semplificare i modelli. Senta, le voglio fare un'ultima domanda, visto che siamo nella parte finale della trasmissione, e il motivo per cui l'ho intervistata e quindi il motivo per cui le ho chiesto di partecipare a Caccia Fotone. Questa crisi finanziaria dal punto di vista matematico si poteva prevedere oppure no? Ma allora, con il senno di poi è sempre difficile ragionare. Con i modelli matematici che avevamo, che studiavamo e che conoscevamo, non era possibile prevederla. Un'attenta analisi, lo dico ex post, quindi il valore è quello che è, di alcuni fenomeni che non erano tanto comprensibili da un punto di vista matematico, ma comprensibili anche con una completa conoscenza della realtà, perché la realtà era molto complicata, c'erano dei sintomi molto seri che qualcosa non funzionava. Io ecco, non sono dell'avviso che si poteva prevedere o non prevedere, non è una previsione che poteva essere fatta puntuale, ecco, non si poteva prevedere questo declino, questo fenomeno e così via. Però c'erano delle grandezze matematiche, numeriche, che ci dicevano che qualcosa non funzionava. Dopodiché la reazione non doveva essere di tipo ingegneristico o fisico o matematico, quindi cambio un numero, prendo una decisione diversa e cambia la situazione. No, deve essere una decisione di policy presa dalle autorità di regolamentazione e dai governi per cambiare atteggiamento. Ecco, questo sì, c'erano delle avvisaglie, non sono state colte in tempo. Professor Barucci, la ringrazio per aver partecipato a Caccia Fotone, saluto i nostri radioascoltatori, gli ascoltatori di Caccia Fotone e di Radio Città Fucico. L'appuntamento è, come al solito, sabato prossimo, stessa ora, stessa radio e stesso fotone, e l'augurio di una buona scienza a tutti. Grazie professore. Grazie a voi, arrivederci.